Signore e signori, direi che sono le 8, mercoledì 13 febbraio 2008, l'anno della svolta. E rock and roll. Eccoci qui, un'altra ora. La tua colazione rock. Intensa, ricca. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, in nome e per conto di Roberto Fricantoni, intanto buona giornata dall'Ariele anche a voi della seconda ora. Vi chiederei la gentilezza di smettere di scrivere rivendicazioni e tentativi di risarcimento come questo, il patentato 1166. Dite al signor Fricantoni che per colpa sua e di mio padre, che mi faceva ascoltare Sesso e Carnazza a 4 anni, sono venuto su scemo. Fricantoni, risarciscimi. No, non si può. Nella prima ora intanto è scattata... sono scattate nuove idee per suonare i Cure. Qui Pux ce li propone col piffero scolastico, che potrebbe essere una buona idea. C'erano un altro paio di proposte, questo CCCP ce li propone con il Berimbau e Fede da Firenze li propone con l'Ocarina. Mentre saluto un amico che non si è firmato, ma che ci fa sapere che ha comprato da internet una lira, lo strumento quello degli dèi. Adesso ci si mette d'accordo e ci inventiamo qualcosa per suonare qualcosa con la lira, per forza, sicuramente. Un abbraccio anche ad Anna da Firenze. Secondo me le altre radio sono un po' rock, dato che ci invidiano a morte. Fate le buche in terra, ragazzi, la nicchia vincerà. Anna da Firenze. Fate le buche in terra, tradotto, è positivo o è negativo? Fatemelo sapere, amici di Firenze. Mentre Spadino, ti chiederei gentilmente una base di quelle soft, una base di quelle romantiche. Bravo, bravo, bravo. E devo ringraziare Franz per questo messaggio, col quale voglio iniziare ufficialmente la seconda ora di quest'oggi. Franz ci scrive: stamattina sono uscito di casa, faceva molto freddo, la mia vicina stava uscendo con la macchina, le ho chiuso il cancello e le ho dato le chiavi. Lei mi ha sorriso, non se lo aspettava, è divorziata, un po' trasandata, ma in quel sorriso c'era tutta la bellezza che aveva dentro sepolta. E allora ho capito qual è il compito di Rock FM: quello di portare un sorriso, compagnia e buona musica a tutti, ai gay, alle lesbiche, agli ex socialisti, ai disoccupati, ai divorziati, ai vigili che stanno antipatici e anche ai loro parenti, anche a tutti quelli di Gallarate famosi per il carattere strano, anche ai DJ delle altre radio che guardano solo il guadagno, i dati di ascolto e che credono che la nicchia sia un modo cool per dire pisello. Ciao, Franz. Grazie, Franz. Iniziamo anche quest'oggi con il brano segnalato da Mox Cristadoro, Cupi. Cattivi quest'oggi, Typo Negative, 1996, questa è Green Man, dalla redazione di Easy Rider, qui a Paneburro Rock and Roll. Oh mamma, che incubo. Thank you. della seconda ora è inquietante. Targato Type Negative, Green Man, dedicato a tutti gli uomini verdi all'ascolto in questo momento. Ringraziamo Mox Cristadoro, ricordiamo come ogni giorno la sua Easy Rider da mezzogiorno alle 2 a tenervi compagnia con la grande musica di Rock FM. Smettetela di segnalarci da Firenze che fare le buche in terra è positivo, grazie. Vuol dire che spacchiamo, ok? Allora si fa le buche in terra, volentieri. È un piacere. C'è parecchie cosacce da combinare anche quest'oggi. Aspetta che c'è addirittura una spiegazione. Fare buche per terra. Quando non c'erano i blocchi di partenza, gli sprinter scavavano le buchette, vedi, momenti di gloria, quindi andare veloce. Tom da Firenze, patente 672. Ma guarda, guardate come per precisa la segnalazione anche. Allora, affrontiamolo questo mercoledì 12. Avevo un'altra domanda stupida, fammela ritrovare immediatamente sulla lira. Eccolo qui, abbiamo detto che un radioascoltatore ha comprato una lira. Mi scrivono, dove l'ha trovata la lira, il fratello? Su internet. E la domanda è, ma l'avrà pagata in euro? Simpatici. Trova un amico, trova un tesoro. Glielo comincio così l'intervento di quest'oggi. Bello, un filo retorico, ma sempre un classico, sempre un classico. Sì, sfogliando il giornale, soprattutto in quelle notizie che gli altri gettano nella monnezza e che noi, per dovere di cronaca, ripeschiamo, l'introduzione, chi trova un amico, trova un tesoro, potrebbe avere il suo senso. Ma io? Aspetti, perché ho un sottotitolo. Ovvero? Della serie Lascia stare ad aiutarmi. Sigla! Coccodrillo lo attacca. Amico tenta di aiutarlo, ma gli spara. Eccolo lì, nei momenti del bisogno, chi di noi non vorrebbe avere accanto un amico fidato? Sul fiume Meria, sud-est di Darwin in Australia, un uomo è stato aggredito da un coccodrillo mentre era intento a rubare le uova dello stesso coccodrillo. Questo punto si fa, tra l'altro. Non si fa, e forse il coccodrillo non aveva tutti i torti. Infatti... Comunque... L'animale, estremamente protettivo, gli è saltato improvvisamente addosso, ma aveva tutte le ragioni, gli stava fregando le uova, addentando questo signore ad un braccio. L'amico, anche lui impegnato nella raccolta delle uova, quindi complice, ha tentato di aiutarlo. Estratta la pistola, l'ha puntata verso l'animale e ha fatto fuoco per ben due volte. Il coccodrillo si è dato alla fuga spaventatissimo, ma non ha subito ferite. Sbagliato mira? Sì, anche se qualcosa l'uomo l'ha colpito. I due proiettili infatti si sono conficcati nel braccio sano del suo amico. Il poveraccio, felice di essere ancora vivo, tutto sommato, è stato operato ad un arto per via dei morsi del rettile e all'altro, cioè nell'altro arto, per la ferita d'arma da fuoco dell'amico. Morale della favola, non toccate le uova di coccodrillo, che è difficile trovare. Sì, ed evitate di portarvi un amico con la pistola e dalla pessima mira. Ecco, soprattutto dalla pessima mira. E me, che c'è? Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing at him behind his back. Ormai quasi smetto di preoccuparmi per Francesca, perché è inutile. È inutile, no? Non, che ci no, fare? Ma non possiamo prenderla per. Subiamo questa cosa di Francesca. Lo so, però il contatto con i nostri giovani radioascoltatori è fondamentale. Dobbiamo tenere il polso della situazione. Più in basso di così non si può nemmeno scavare. Dovrebbe essere in linea con noi Francesca! Pronto? Francesca, siamo Ariel e Frick di Pane Burro Rock and Roll. Pane Burro Rock and Roll. Sì, l'ho capito, cazzo. Il bagno della scuola. Chiuso sì. Dentro. Ma come mai? Chiuso dentro. No, c'è la maestra nuova, giovane. Praticamente mi ha fatto le avance. Ma no. Cioè, c'è la maestra che ti fa le avance. Sì, mi dice, mi ha detto, Francesca, vieni in bagno con me. Ma dico, come, il bagno delle femmine? Sì, il bagno delle femmine. Ah, esplicita. Okay. Sì, allora se andiamo e mi fa. Vuoi vedere la pagigia? E io detto, no, pagigia, cazzo non frega, la pagigia, io la brucerei, maledetta. No, hai fatto bene, tra l'altro. E lui mi fa, no, Gigio, vuoi la Potenza? No. No, la Potenza la vera rocker, ce l'ho io! Me l'hanno data aria, le fica la Potenza la vera rocker! No, quella è la patente! Quella è la patente da vero rocker! Allora, la fine capivo se è tolta un grande? Ma no, ma dai! Sì, sì! Ma non ci credo! Sì, e io mi sono chiesa in bagno! È lì fuori la maestra senza mutande! No, quella è la patente, abbiamo capito. Aspetta, non sta bussando. Aspetta, aspetta. No. Non cedere, resta in linea. Non cedere. No, è caduta la linea. Porca. Pure delle maestre dobbiamo aver paura. Ai limiti dell'impossibile e oltre. Ma uno può scambiare la patente con la Patonza? Tutto è possibile a quanto pare per Francesco. I can feel the frigo? Sai cosa ti dico? Dillo. Mi sono rotto di stare in queste cavolo di gabbiette tutto il giorno. La solita routine: sveglia alle 7, prelievo del sangue, pilloline, punturine, soppostine, elettrodi, corsette sulla ruota, ancora prelievi di sangue, basta. Beh, Rogna, poteva anche andarci peggio. Pensa se nascevamo coccodrilli oppure serpenti. Ci avrebbero fatto cinture, scarpe, portafogli. Se nascevamo maiali, Rogna, ci avrebbero mangiato interi. E se nascevamo stercorari, dovevamo spingere palle di merda tutto il giorno. Qua almeno ci danno da mangiare, siamo quasi al sicuro e perché no? Ogni tanto ci divertiamo. Va bene, d'accordo, ma è una vita alienante. Ma non può piovere per sempre, Rogna. Baby, with my brothers and friends around. pensavo, tra me e me, che potrebbero essere tre le modalità per ricevere una patente da vero rocker. Quali? La prima, la più semplice. Sì. Test attitudinale, lo azzecchi e ti pigli la patente. Certo, la meriti in pieno. La classica, la diciamo. Classica. Oppure presentarsi a un raduno surrealista di pane, burro e rock and roll. In certa maniera, e te la meriti honoris causa. Certo. Oppure... Terza e ultima possibilità. 50 euro in busta chiusa in via Locatelli 1, 20-124 Milano, intestate ad Ariel e... Freak. Ti piace come ipotesi? Mi piace quest'ultima. Direi che senz'altro è da sottolineare, però, da preferire. Però, visto l'orario, quasi quasi approfondirei la prima ipotesi, quella del test attitudinale. Alleniamoci anche stamane. Molto giusto. Vediamo di mettere a fuoco le conoscenze rock dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici. Rock e letteratura quest'oggi. Ah, molto bene, perché rock è cultura. Parliamo di Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Sì. Il primo romanzo del giovane scrittore Enrico Brizzi, che all'età di 19 anni pubblica questo best seller. La storia di Alex D, studente dell'ultimo anno di un liceo bolognese, chiamato dagli amici il vecchio Alex. Ci occupiamo però di Jack Frusciante. Il Jack Frusciante del titolo è una storpiatura del nome John Frusciante, celebre chitarrista che lasciò la sua band per problemi di droga quando iniziarono a decollare verso il successo. In seguito ci rientrò e tuttora ci sta suonando. Ricordate di quale gruppo è John Frusciante? Ipotesi A, i Red Hot Chili Peppers. Oppure ipotesi B, i Jane's Addiction. Oppure infine ipotesi C, i Soundgarden. Con chi suona John Frusciante? Ipotesi A, B o C? La soluzione esatta ve la diamo poco dopo, e cioè la risposta giusta a tra poco. Restate con noi.